fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Amici di Resto Radio Convento, benvenuti da Master Nick. Questa è una serata speciale, come ormai diciamo da qualche settimana. Ci siamo, come dire, ci siamo presi anche la domenica, lo spazio della domenica dell'aperitivo italiano, per il nostro angolo radiofonico, per raccontarsi, per raccontare. E ho qui con me 3 di 4 esponenti di un oserei chiamarlo miracolo. Perché? Perché? Vi spiego. Allora, già è difficile a volersi bene tra sorelle. Queste ragazze, intanto, sono 4 sorelle che... 4, attenzione, 4. 4, cioè non una, non due, non tre, non, ma 4. E sono qui al convento tutte e 4 insieme. Quindi non è mai successo nella mia vita che 4, intanto incontrare 4 sorelle, una più bella dell'altra, e che uscissero anche insieme. Siete un caso più unico che raro. Più e raro quindi, che unico. Più raro che unico, vedetela come volete. E quindi volevo conoscerle e capirne di più. Tra l'altro sono vestite anche tutte in nero, sono tutte more praticamente, tranne una che si è voluta distinguere. E quindi, come dire, si sono anche copiate gli abiti dell'armadio. Adesso andiamo a conoscerle, vai, come vi chiamate? Numero 1, Ionela, per voi Ionela, attenzione ragazzi, Ionela, Ionela. Sentila, fa anche la vocalist, numero 1 ha detto, no, ma perché sei la più grande? Numero 1 perché sotto qua c'è uno. Ah, ok, prima. No, pensavo fossi perché sei la numero 1, inteso la migliore, no. No, no. Sei la più grande? No, la quarta. La quarta, più giovane. In realtà siamo 5, attenzione. 5? Che sogno, che bello. E sarete divertite, vi strappavate le bambole a vicenda, una con l'altra. Molto, da piccoline. Anche i capelli, infatti vi sono cresciuti così tanto perché ve li strappavate, la ricrescita. Lei non glieli strappate da un po', fa la brava, lei fa la brava da troppo tempo. Allora, quindi Ionela, poi Monica e Nicoletta. Nicoletta, poi abbiamo un assente che non è voluta entrare. La Carmen è un po' timidina, la Carmen è timidina. Perché lei, per non essere timida, ci vuole un bicchierino, ma dici, poi si scioglie. Non può berlo perché sta guidando. Sta guidando, è una serata devastante, bruttissima. Tra te, poi Carmen voleva distinguersi perché è quella vestita di bianco, e quindi voleva fare la differenza. Poi la quinta invece come si chiama? Tudorizza, che bei nomi. Che bei nomi, sono nomi. Allora, voi però non siete dove abitate? A Brescia. A Brescia? Beh, però con questi nomi avete origini? Romania. Ah, romene, bellissimi. Noi Romania. Infatti dovevate, io insomma ho chiacchierato un po' con Ionela all'inizio della serata, sentire dire pota da una rumena è un'esperienza disarmante. Sono stata sposata con un bresciano, perciò ho preso un po' bresciano. Però è rimasto un po' quell'accento balcanico che si sente nel pota, ed è un'esperienza sensoriale. Sì, è vero, è più sexy. No, è soprattutto sulla O, perché di solito è pota, cioè molto più, mentre così è più delicato, vedi, più femminile, più chic. Allora, da quanto tempo siete in Italia o siete nate qua? No, abbiamo tanto tempo, tipo 15 anni. Ah, 15 anni, quindi praticamente italiane. Tra andare e venire. Andare e venire, che avete fatto? Sa, avete fatto su e giù? No, vabbè, loro sì, cioè nel senso anche perché io sono stata qua, sputata, perciò ovvio che non è diverso. Ah, ok. Bella Italy, ragazzi, bellissima, vente qui al convento che si diverte un mondo. Grande, vedi che offrire. No, guarda che è la prima volta che vengo qua e dico wow. Vedi, ci si diverte. Oh, bene, siamo contenti che i 2 drink che ti abbiamo offerto abbiano aiutato a fare una buona recensione. Bene. Pochi in giro così. Bene, te ne offriamo altri 2 allora dopo. Così no, non qui a casa per l'amor del cielo, questa è ancora la macchina. E tanto ti porta a casa tua sorella, quindi non è un problema. No, se parli così bene del convento, te ne offriamo altri 2 così parli benissimo. Adesso ragazzi, venite tutti qua che io vi aspetto al convento. A sete, evidentemente a sete. Allora dai, raccontateci un po' come siete cresciute, come eravate da piccole, se andavate d'accordo, litigavate. 4 sorelle è tosta. Diciamo che le sorelle... No, meglio, scusa, 5. Cinque sorelle è tosta, E sono sempre stato un maschiaccio. Sì, si vede. Ma proprio le forme da maschiaccio. Non fammi arrabbiare, guarda che muscoli. Si vede, no, si vede. C'è anche un po' di barbetta, infatti, qua. Poi vedi che è arrivato il foto. Mi sono giocata dalle sue giocatrici, cioè, volevo farmi la treccia. Sì, sì, sì, c'è un po' di pizzetto, si vede. La barba, perché volevo lasciarmela anch'io. Ah, ti piace? Vedi, è nel 2020 la Ionela, perché già c'è la donna con la barba oggi. Effettivamente, tante poche donne in giro d'oggi con la barba, perciò ragazzi, attenzione. Potresti aprire un mercato. Sì. È un mercato che ancora non c'è, la donna con la barba. Potresti spaccare. Anzi, mi lascerò crescere il pelo sotto le ascelle. Wow, che bella emozione. Non vediamo l'ora di vederti nell'estate 2020 col pelo sotto le ascelle. Sarà la moda 2020, ragazzi. Sarà un gentleman, la moda 2020 con la ascella, con i capelli lunghi, anzi a treccia. Ma dov'è il bottone per spegnerla questa ragazza? No, ce l'ha da qualche ragazzi, parte? Attenzione. Ah, ok, non ce l'ha il bottone. Ho avuto solo uno spritz, però all'inizio. Fantastico. Perché sono con la macchina, attenzione ragazzi, quando si beve giudizio. Sempre. Infatti dopo ho bevuto acqua tonica. Che fa meglio dello spritz con l'Aperol. Ok. Ma si spegne, quindi non si spegne. C'è così da qualche parte. No, io sto cercando bottoni, ma qua non c'è nulla, non si schiaccia nulla. Allora vai, poi raccontateci qualcosa anche voi, cosa volete dirci? Io sono divertita grandissimo, molto. Sì, ma se hai flirtato tutta sera? Sei sempre stata vicino agli uomini. Oh mamma, sta ragazza. Sempre casa, solo vinci, questa ragazza sempre casa, anche sempre stata che io stasera vi porto al convento. Oh, fatela stare zitta questa ragazza. È sempre stata vicino a degli uomini tua sorella stasera. Ai uomini, no. Sempre ragazza, sempre non si staccava mai. Dai, facciamo lei. Brava, forse è così. Forse hai ragione. È una cosa diversa. Forse hai ragione. Sono gli uomini che le stanno vicino, devi portarti l'antizanzare, tipo, no? Lo spray, che quello funziona. Perché non lo mola più, però è il cetriolo! Quindi ti ho salvata. Non lo più, perché sennò non lo mola più il cetriolo. Ti ho salvata, quindi, perché non ti interessa? Io pensavo che fossi innamorata persa, quindi no. No, dai. Cioè, pensa che illusione che ci date. E io pensavo, voilà, è già innamorata, mi spiace rubarle il tempo, e no, non è proprio. Guarda che è anche una bella cosa quando comunque ci sono delle ragazze, perché tanto è vero che diciamo la verità, le donne in giorno d'oggi si attirano molto, ma molto, molto. E sì. Comunque una donna quando è allegra, quando non mi piace di compagnia, infatti è bello socializzare. No, sono pienamente d'accordo. Quindi immagino che il vostro status sentimentale sia single, libere. Io single. Libere? Poche sette giorni, da pochi giorni. Sette giorni. No, io ho un anno. Un anno. E state bene così? Io forse è ora di tornare sul mercato? Sì, penso di sì. Oh, pronte? Pronte per entrare? Allora, vai, però, ma anche lei? Lei? Anche io single. Ah, tutte e tre single. No, allora. Tutte e quattro. Anche l'altra, tutte e quattro. Madonna, è un'occasione d'oro, ragazzi. Quattro al prezzo di una. Cioè, vi portate a casa quattro conquistandone un. Ve ne portate a casa quattro conquistandone una. Allora dai, velocemente. Fatevi un bel regalo. Fatevi ragazzi, un bel regalo di Natale. Qua al convento, ancora, vi aspettiamo. Questo mi fa ancora gli spot. No, ma guarda che allora, non te li offriamo più i cocktail. Non mi conosci. Non te li offriamo più i cocktail. Basta. Adesso ormai vuole offrirsi l'acqua tonica per tutta sera. Non te lo offriamo più l'acqua tonica. Basta. Siete qui in diretta per noi della convento più in diretta, la ragazza e ragazze. La numero uno. Allora dai, velocemente, visto che avete detto che siete single, l'identikit, eh? Sì, vuoi toglierti tutto? No, magari non so, magari siete potete. Ma non c'è, schifo non mi fa. Dicevo, visto che siete single, velocemente l'identikit del vostro uomo ideale, cioè che caratteristiche deve avere? O fisiche o mentali? Che ha dei coglioni, ragazzi, e innanzitutto. Bello, no, ma è chiara. Solitamente non si potrebbero dire le parolacce, ma questa è perfetta. Sì, perché bisogna. No, questo è chiaro. Adesso, no, fa capire. Non, fa capire, poi basta, solo quello è importante. Basta, ok, basta. Poi? Che sia dolce. Dolce? Sincero, ok. Viva la sincerità, assolutamente. Perché ci sono i uomini sposati che dicono in giro che sono singoli, invece. Ahia, no, non va bene. Quello non va bene. Beh, voi cercatevelo uno sposato, no? No, io. Cercatevelo single. Uno singolo, ovviamente. Appunto, non cercatevelo sposato, se no è un problema. Ok, quindi sincero, onesto, che abbia quelle cose lì. Dolce. Bene, quindi che abbia quei coglioni. Sì, beh, quello l'ha detto lei, quindi siamo a posto. Anche perché lo dico io. dico anch'io. Vabbè, ma tanto quello che dice una lo dicono le altre quattro, quindi più o meno vale per tutte, no? Ah no, vale per tutte. Quindi, ragazzi all'ascolto, uomini all'ascolto, età? Fascia d'età? 34. Solo 34. Se ha appena compiuto i 35, fuori, eliminato. No. Ah, fascia dell'età degli uomini, non nella nostra. No, ragazzi, non voi. Fascia d'età. Ragazzini, nel senso dai 30 in su. Dai, dai 30 in su, 30 in su, bene, bene. Non 70 perché è troppo. Ah no, per quello, cioè, dai, fascia d'età, minimo, massima, minimo, massima. 30-70. No, sì, ah? Dai, troppo, dai. No, 30, troppo, 70, troppo. Dai, oh, insomma, no, 70, ma con la dentiera. Cosa deve averla? 30 minimo, l'abbiamo capito, massimo? 60, dai. 60. Certo, 60, ragazzi, certo. 60. Oh, ma lei, no, vale. Aggiudica, per me è 48. A me 45. Ok, 30, ok, sui 30, come dire, concordiamo, poi sulla massima ci sono un po' di discrepanze, molto bene. Quindi dicevo, amici all'ascolto, se pensate di avere le caratteristiche che le ragazze hanno appena elencato, fatevi avanti, mostratevi qui al convento o presentatevi. Torno a dire, non è difficile vederle, sono tutte e quattro bellissime, more, altissime, vicine, perché se ne trovate una avete trovato le altre quattro, e quindi non è difficile incontrarle. Fatevi avanti, intanto le ringraziamo per essere state con noi e auguriamo loro buona serata e buona caccia a questo punto. Ma, grazie. Stagione di caccia, vanno a caccia di fagiani. Fagiani. Salutate il rumeno, vai, saluto il rumeno. Ciao, salute, no, fette le rumeno. Ah, ok, infatti, ciao. Ciao, saluto, Sarabona, ciao, della convento, in grey per voi. Bene, non avrei saputo dirlo meglio. Ciao!